Le ragioni sono molto semplici. Intanto la visita della Premier Meloni a Bologna, non a caso all'assemblea di Confindustria, insomma, poi con altri anche ministri, Urso, Bernini, c'è anche Roberta Metsola, e avviene in dei giorni caldi, perché queste ore, insomma in questi giorni, si sta discutendo il decreto sicurezza. Ieri a Roma il governo ha deciso di porre la fiducia a questo decreto, esautorando di fatto anche il Parlamento e la democrazia parlamentare. Ricordiamo come questo decreto nasce come disegno di legge, che è iniziato l'iter, insomma, a gennaio 2024, e ad aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a farne il decreto, quindi di fatto esautorando il Parlamento, la discussione in Parlamento. Oltre alle opposizioni parlamentari, è da ottobre che una rete nazionale, la rete a pieno regime, si sta mobilitando in tutti i territori contro questo decreto, individuandolo anche come manifesto ideologico di questo governo, dalle norme contro la resistenza passiva, all'inasprimento di pene per chi occupa le case, introduzione di 14 nuove fattispecie di reati, insomma un provvedimento molto repressivo che va a toccare tutti, dagli attivisti climatici agli attivisti per la giustizia sociale, a chi è in carcere, a chi è rinchiuso nei CPR. Per cui la rete a pieno regime è riuscita a creare uno spazio di mobilitazione importante, che ieri si è espresso anche con forme radicali a Roma, nel momento in cui il governo stava ponendo la fiducia, insomma, alla Camera dei Deputati. Il corteo di ieri a Roma è stato bloccato dalla polizia a pochi metri da Montecitorio, insomma. Per cui oggi ci sembrava fondamentale essere in piazza non solo come la BA, ma con la rete, insomma, no, decreto sicurezza bolognese, e infatti ci sono anche altre realtà che in questo momento stanno intervenendo, che fanno parte della rete, per continuare a esprimere il nostro dissenso. Oggi si voterà effettivamente il decreto sicurezza, per cui sta cambiando l'aria in questo paese, e bisogna attrezzarsi veramente per difendere la democrazia e per spingerla in avanti. Voi siete, diciamo, un po' a distanza rispetto al cordone di polizia che protegge, diciamo così, la presenza di Meloni al Teatro Europa Auditorium. Com'è la situazione fino a questo punto? Allora, noi siamo all'angolo dove abbiamo chiamato, insomma, il concentramento del presidio di oggi. Il blocco della polizia è qualche decina di metri più avanti. Noi ci siamo posti all'angolo anche per coinvolgere le persone, perché siamo su via Stalingrado, sostanzialmente, che è molto trafficata. È un martedì mattina, per cui comunque la gente sta andando a lavoro, insomma, sappiamo anche che la vita è difficile in questo periodo, e devo dire che stiamo incassando anche molto solidarietà da chi sta passando via Stalingrado. Abbiamo uno striscione clacson contro il governo Meloni che sta ricevendo molto consenso, ecco. E la rete a pieno regime sta continuando la mobilitazione anche dopo ieri, dopo, insomma, il momento che c'è stato in via del Tritone. Rilanciamo con forza la grande manifestazione che ci sarà questo sabato 31 maggio ore 14 a Piazza Vittorio, che punta ad essere una manifestazione di massa, così come è stata quella di dicembre, del 14 dicembre, sempre della rete, per rafforzare un'opposizione sociale vera e reale a questo paese, e che guardi in avanti, guardi a difendere la democrazia, ad attrezzarsi per difenderla, per spingerla sempre più in avanti.